Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sappiamo che siamo di fronte a una sfida che è quella di essere all'altezza di una crisi senza precedenti e anche di decisioni senza precedenti che sono state prese dalle istituzioni europee assieme ai governi nazionali negli ultimi 4-5 mesi. E questa sfida sarà cruciale ovviamente per il nostro futuro. Sfide, grandi sfide ci attendono il nostro paese, il nostro governo, ma anche l'Europa e il mondo. Cara ascoltatrice, cari ascoltatori, naturalmente noi ci concentriamo di più sull'Italia e anche sul continente di cui facciamo parte. Ne ha parlato il commissario Gentiloni e ha detto siamo in una fase di rilancio dell'economia, ma resta un clima di incertezza generale anche in Italia. Però ha detto il commissario all'economia dell'Unione Europea, siamo fiduciosi che il paese sarà all'altezza di queste sfide, l'ha detto oggi in audizione alla Camera, e speriamo veramente di essere all'altezza. A proposito di essere all'altezza, fra le varie notizie poi che approfondirò con gli ospiti, ci collegheremo ancora con gli Stati Uniti, perché Trump, presidente americano, continua il suo tour negli Stati americani, nell'America, delle proteste antirazziste, e oggi ha fatto un paragone tra i poliziotti, quelli violenti che uccidono e feriscono gravemente afroamericani, dicendo che sbagliano come i golfisti, che i giocatori di golf che sbagliano a mandare la pallina in buca. Poi ne parleremo fra le altre cose. Tra i tanti temi di questa sera parleremo di anche della formazione della figura del responsabile del Covid nelle scuole, visto che appunto la scuola è al centro delle maggiori preoccupazioni in questi giorni, visto che già oggi sono riaperte alcune scuole per i corsi di recupero. E poi lo sapete che dal 14 c'è la data ufficiale dell'avvio della scuola, anche se poi varie regioni aprono in date diverse. Parleremo anche di arte, di una scoperta che riguarda Raffaello. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte. Piccola digressione, mi chiedo perché Facebook deve cambiare continuamente. Io adesso non riesco a orientarmi con la pagina nuova, con le nuove modalità, non ci capisco niente. Qualcuno può avvisare Zuckerberg che le cose a volte vanno anche bene così, come diceva Manzoni. Quello che viene dopo non è sempre progresso. E poi vi dicevo numero per i vostri WhatsApp, che è sempre il 349-238-6666. Possiamo partire. Epidemia di coronavirus in Italia, nuovo calo di contagiati, sono 978, 8 i morti, e l'Istituto Superiore di Sanità annuncia corsi di formazione per i referenti Covid. I dati Istat, effetto coronavirus sul lavoro, da febbraio 500.000 occupati in meno, a luglio la risalita. Stati Uniti, tour di Trump nell'America ferita dalla violenza razziale, e paragona i poliziotti che uccidono gli afroamericani ai golfisti che sbagliano la buca, nuovi scontri a Los Angeles. Bielorussia, violenze arbitrarie e arresti a Minsk, la repressione di Lukashenko si scatena contro gli studenti. Alto Adige, polemiche sulla norma in discussione in Parlamento che permetterebbe l'iscrizione in Alto Adige all'ordine dei medici di dottori che parlano solo il tedesco. Ma effetto notte ci sarà il presidente della provincia autonoma di Bolzano. Arte, scoperto il blu egizio creato da Raffaello nel Trionfo della Galatea, non si usava più dalla fine dell'Impero Romano. Partiamo quindi come sempre dall'aggiornamento sui dati relativi al coronavirus in Italia. Di nuovo in calo i contagi da Covid, nelle ultime 24 ore sono stati 978 i nuovi casi, 18 meno di ieri. 8 le vittime, 2 in più di ieri, in aumento il numero dei tamponi effettuati, risalgono sopra quota 100 i ricoverati in terapia intensiva positivi al Covid, sono 107, 13 in più di ieri. E i dati sulla mortalità complessiva nel nord Italia a luglio subiscono un calo oltre le attese, dopo aver registrato un pesante eccesso lo scorso maggio in relazione al Covid-19. Ancora in leggero calo i nuovi casi di Covid in Italia, con 978 contagi nelle ultime 24 ore, a fronte di un aumento dei tamponi fatti. Sono 8 i decessi, 2 in più di ieri. Aumentano a 107 i pazienti in terapia intensiva, 13 in più. In aumento anche i guariti. Allargando lo sguardo ai dati sulla mortalità complessiva giornaliera nel periodo estivo, il Ministero della Salute rileva nelle città del nord un calo del 4% a luglio, un dato valutato valutato come inferiore alle attese, a fronte di un eccesso significativo della mortalità del più 11% rilevato lo scorso maggio. In linea con i valori attesi, i dati sui decessi al centro-sud. Intanto partono due corsi a distanza gratuiti dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero dell'Istruzione per i responsabili Covid nelle scuole. La piattaforma per la formazione è in grado di ospitare fino a 70.000 corsisti, tra insegnanti, personale scolastico e professionisti sanitari. Nel mondo i contagi sono oltre 25,5 milioni. Secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University, in testa sono sempre gli Stati Uniti, con oltre 6 milioni di casi, seguiti da Brasile, India, Russia, Perù e Sudafrica. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito, avete sentito che nelle scuole, intanto, come annunciato dall'Istituto Superiore di Sanità, partono i corsi di formazione per i responsabili Covid nelle scuole, e ne parlerò nel corso di questa puntata proprio con un ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità. Parliamo di vaccino antinfluenzale. Saranno 18 milioni le dosi del vaccino antinfluenzale, per l'appunto, che quest'anno andranno al Servizio Sanitario Nazionale, 6 milioni in più rispetto allo scorso anno, ma i farmacisti rischiano di restare senza approvvigionamenti e, secondo una loro stima, ma ne servirebbero 1,5 milioni da distribuire attraverso i loro canali. Abbiamo del tutto argomento con le borse europee, seduta nel segno dell'incertezza. Gli investitori hanno valutato le indicazioni in chiaroscuro sull'attività economica in Europa, che in agosto si è confermata in espansione, pur evidenziando segnali non incoraggianti per la tenuta della ripresa. In base a quanto emerso dal sondaggio PMI, l'indice dei responsabili agli acquisti effettuato da Ismarket. Segnali di fiducia per l'industria italiana arrivano dall'indice PMI, il sondaggio condotto fra i direttori di acquisto delle imprese manifatturiere. Ad agosto il nostro paese ha registrato un valore di 53,1 punti, che rappresenta il massimo dal febbraio 2018 ed è anche il migliore in Europa, dove i risultati sono stati invece contrastanti. Se infatti anche la Germania ha segnato un recupero, da Spagna e Francia sono arrivati nuovi segnali recessivi, con valori sotto i 50 punti. L'indice PMI è importante perché è considerato un buon anticipatore delle dinamiche industriali in corso nel terzo trimestre dell'anno, quello che segue il periodo più buio di Covid. Maximiliano Cellino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il leggero aumento degli occupati a tempo indeterminato potrebbe derivare principalmente dalla conversione di contratti in scadenza a tempo determinato. In più, l'aumento della componente femminile fa pensare a un aumento dei posti nel settore dei servizi alla persona, che peraltro è stato oggetto di una recente sanatoria. E così spiega Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT, al microfono di Sebastiano Barisoni a Focus Economia. Leggero aumento degli occupati a tempo indeterminato perché sono quelli gli occupati a termine che a scadenza le imprese decidono di tenere. Ah, perché hanno fatto su di loro determinati investimenti. Non escludo che, data la forte componente di aumento femminile di questo mese, sono 85.000 in più, 80.000 sono donne, non ci sia stato un aumento di domanda soprattutto di servizi alla persona, data dal fatto che il lavoro in parte ha ripreso, ma le scuole erano chiuse, i centri estivi a luglio non c'erano, e quindi è nata una domanda, e qui vedremo, lo capiremo facilmente, perché quando scopriremo, se non scopriremo, che questi lavori sono soprattutto part time, potrebbe essere una dimostrazione di questa cosa, sapendo che part time, anche se con un contratto a tempo indeterminato, lei dice, per cui lì vedremo anche cosa è venuto sul fronte badanti, colf. Sappiamo che c'è stata anche una sanatoria che riguardava non solo loro, ci mancherebbe. E a proposito di occupazione, la direttrice generale di Confindustria, Francesca Mariotti, in audizione sul decreto legge agosto alla Commissione Bilancio del Senato, ha detto: la proroga del divieto di licenziamento, ex legge, rappresenta un rimedio di dubbia utilità, soprattutto se finisse per ritardare o addirittura scoraggiare quegli interventi di riorganizzazione o di ristrutturazione d'impresa e quegli investimenti che potrebbero più rapidamente assicurare competitività e occupazione. Il divieto, dice, di licenziamenti, che non ha uguali in nessun altro paese del mondo, non ha più ragione d'essere in questa fase, che dovrebbe invece essere dedicata a favorire la ripresa delle attività. Siamo alla politica, entra nel vivo a questo punto il confronto politico in vista del referendum sul taglio dei parlamentari. In piazza il fronte del no e quello del sì. Scende in piazza il fronte per il no al referendum sul taglio di 345 parlamentari. La manifestazione si terrà il 12 settembre in piazza Santi Apostoli a Roma. A partecipare saranno esponenti di diversi schieramenti, da Emma Bonino a Gianni Cuperlo, da Gregorio De Falco alle sardine. A sostegno del sì, invece, per lo stesso giorno, il Movimento 5 Stelle annuncia iniziative in tutta Italia. Orientato per il sì è anche il Partito Democratico, Zingaretti chiede però che arrivino segnali concreti sulle riforme correttive che dovranno accompagnare il taglio dei parlamentari a partire dalla nuova legge elettorale. Dopo diversi rinvii, martedì prossimo la Commissione Affari Costituzionali della Camera voterà il Germanicum come testo base. Dall'opposizione, intanto, pur ribadendo le sue perplessità sul referendum, Berlusconi fa sapere che Forza Italia lascerà libertà di coscienza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nella puntata di domani di Effetto Notte inviterò due esponenti politici, uno per il sì, uno per il no, per il taglio dei parlamentari nel referendum che si voterà il 20 e 21 settembre, insieme poi alle elezioni amministrative, in modo che vi facciate un'idea vostra, il più possibile chiara, speriamo, di cosa votare, di che riflessioni avere su questo argomento. Intanto dall'estero, tour del presidente americano Trump negli Stati Uniti, tra le proteste dovute alla violenza razziale, e oggi ha fatto questo paragone dei poliziotti che uccidono gli afroamericani, li ha paragonati ai golfisti che sbagliano buca. Intanto sono scoppiati nuovi scontri a Los Angeles per un altro afroamericano ucciso, poi ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti. Intanto Twitter ha rimosso come fuorviante un post condiviso da Trump in cui si riduceva il bilancio delle vittime di coronavirus negli Stati Uniti. E adesso la crisi in Bielorussia. Bastonati e arrestati dagli uomini in nero con il volto celati dal passamontagna delle unità speciali dell'antiterrorismo è successo più volte nella giornata di oggi nella capitale bielorussia di Minsk. Agli studenti delle scuole che si sono uniti alla protesta antigovernativa anche solo indossando i colori, il bianco e il rosso, degli oppositori di Lukashenko. La repressione ripartita a pieno regime sfugge alla censura solo attraverso i filmati postati su Telegram che dal 9 agosto scorso appunto sono stati diffusi. Di nuovo in Italia, in merito alle polemiche in Alto Adige sulla possibile iscrizione all'ordine dei medici che parlano solo tedesco, il presidente della provincia di Bolzano, Compacer, precisa che la modifica a questa normativa che è in discussione al Parlamento riguarda solo il settore privato. Poi però, per chiarire questa vicenda, Compacer sarà ospite nel corso di questa puntata qui a Effetto Notte. E parliamo adesso di arte. Per dipingere il blu del cielo e anche del mare che fanno da sfondo al trionfo di Galatea, nella lussureggiante loggia di Villa Chigi, oggi conosciuta come Villa Farnesina, a Roma, Raffaello aveva messo a punto un esperimento unico ricreando in bottega il celeberrimo blu egizio, il primo colore artificiale della storia, il cui uso si era perso dopo la fine dell'impero romano, sostituito da lapislazzuli. È questo sorprendente risultato di una ricerca sui materiali dell'affresco guidata dal professor Antonio Sgamellotti, che sarà ospite a sua volta qui a Effetto Notte a spiegarci l'importanza di questa scoperta. Per chiudere, un po' di sport: Tour de France, prime montagne, poche emozioni e quarta tappa che parla decisamente sloveno. A ben guardare è successo poco, per non dire niente, su un traguardo che rievoca la più grande sconfitta patita proprio al Tour dal cannibale Eddie Merckx, che in quell'estate del 1971 sul traguardo di Rouen-Merlet pagò a Luis Ocaña la bellezza di 9 minuti. Quest'oggi la battaglia è durata 9 minuti, per dire poco, nulla, perché i corridori sono andati alla velocità del vento e alla fine è stata quasi volata in salita. Giornata magica per la piccola Slovenia, che fa la voce grossa piazzando due interpreti ai primi due posti. Primoz Roglič vince su Tadej Pogačar. Terzo il filosofo di Francia, Guillaume Martin. Quinto Julian Alaphilippe, che riesce a mantenere la maglia gialla. Ora il francese ha 4 secondi di vantaggio sul britannico Adam Yates e 7 su Primoz Roglič. Gli italiani scomparsi: 22esimo Damiano Caruso a 45 secondi. Domani quinta tappa, Gap Privat, 183 km, partenza da una località abituale per la carovana del Tour, con un percorso senza particolari difficoltà. Una tappa ideale per velocisti, ma attenzione a fughe che partono da lontano. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Aurier Merlet. Bene, con lo sport direi di chiudere questa prima parte, come sempre, della puntata, la sintesi della giornata, così aggiorniamo chi sta viaggiando, chi si sta muovendo, e poi io ritorno tra pochissimo cominciando ad approfondire i primi temi con gli ospiti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Cominciamo allora ad approfondirle alcune notizie insieme agli ospiti, sempre Roberta Giordano con voi. Vi devo aggiornare su due notizie che sono arrivate in questo momento. Una è relativa, sapete, alle povere bambine che sono morte per la caduta di un albero in un campeggio a Massa Carrara, a Marina di Massa. Sono arrivati due avvisi di garanzia nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Malak e Gianna Lassiri, due sorelline di 14 e 3 anni che erano residenti a Torino, uccise domenica appunto da un pioppo caduto sulla loro tenda in campeggio, campeggio Verde Mare di Marina di Massa. Secondo quanto appreso, essere iscritti nel registro degli indagati sarebbero stati i due soci dello stesso camping, e proprio domani in programma l'autopsia sulle due sorelline. Poi l'altra notizia invece riguarda gli Stati Uniti, con i quali, vi dicevo, ci collegheremo per parlare del tour di Trump appunto nelle varie città dove ci sono le proteste per le violenze razziali. Aveva annunciato che andava proprio a Kenosha, dove è stato ferito gravemente l'afroamericano Jacob Blake, per cui sono poi di nuovo riscoppiate le proteste. Sapete che è rimasto paralizzato per aver ricevuto 7 colpi di pistola alla schiena. Ecco, quindi Trump ha detto: vado a Kenosha perché devo portare ordine, devo ringraziare la polizia. Adesso è uscita la notizia che anche il candidato avversario alle presidenziali americane candidato democratico Biden, anche lui ha fatto sapere che andrà a Kenosha. Poi dopo ci chiariremo con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti. Ieri, come sapete, prima puntata della nuova stagione di Effetto Notte, oggi la seconda, il primo settembre. Ieri ho concentrato buona parte della puntata sull'imminente riapertura della scuola, 14 settembre, anche se vi avevo spiegato che in virtù, e aveva anche sottolineato la stessa cosa il professor Patrizio Bianchi, che ha fatto parte della task force per la ripartenza in sicurezza della scuola, che tutte le regioni hanno una loro autonomia per legge, no? Di decidere quando riaprire la scuola, quindi vanno comunque in ordine sparso. La data ufficiale è il 14, però vi facevo l'esempio, non so, di Bolzano che apre il 7 settembre, dell'Abruzzo che apre il 24, della Sardegna il 22. Però ieri ho concentrato, dicevo, la puntata su questo tema così importante, soprattutto perché c'erano due appuntamenti cruciali: la riunione del Comitato Tecnico Scientifico per decidere definitivamente, più o meno definitivamente, le regole da rispettare, da approntare per la riapertura in sicurezza della scuola, e poi l'indicazione principale che è venuta fuori è quella che la mascherina non è necessaria nelle scuole di ogni ordine grado se c'è il distanziamento almeno minimo di un metro. E poi c'era questo vertice tra governo e regioni per trovare un compromesso, una mediazione sulla riorganizzazione del trasporto pubblico locale, che sapete è fondamentale per il riavvio della scuola e anche delle attività produttive. E proprio mentre eravamo in diretta, mentre sono entrata in diretta con Effetto Notte, è arrivata la notizia di un'intesa raggiunta con le regioni, tra governo e regioni, che prevede la massima, il limite di massima capienza dei mezzi, dei bus, dei metro, dei pullman, dell'80% e solo al 100% nel caso il viaggio duri meno, sia una distanza che dura meno di 15 minuti. Questo è il limite di affollamento. Novità che servono a aumentare la capienza dei mezzi pubblici, ma in condizioni di sicurezza. Ieri, appena raggiunta questa intesa, quindi ci siamo collegati con il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Sentiamo che cosa ha detto a proposito appunto di questo compromesso, di questa mediazione raggiunta. È stato trovato un accordo che prevede che i mezzi del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, quindi sia per quanto riguarda il ferroviario sia per quanto riguarda gli autobus di linea urbana e extraurbana, possano viaggiare all'80% della capienza della carta di circolazione, quindi si intende in piedi e seduti, con uso ovviamente della mascherina. È un compromesso che riteniamo sia utile per ovviamente far viaggiare tutti quelli che dal 14 o prima, se alcune province autonome partono prima, consentirà di non lasciare a terra nessuno, e dall'altro dovrebbe consentire un ragionevole margine di sicurezza ovviamente per proteggerci dal Covid. E poi ha anche sottolineato che per qua poi resta, diciamo, un po' la questione, il nodo delle risorse economiche per riorganizzare da parte delle regioni tutto il trasporto pubblico locale. Dice però intanto gli utenti sono tranquilli, per loro sarà tutto a posto, questo diventa la questione economica, una vicenda insomma che resta tra il governo e noi regioni. Sentiamo anche questo passaggio. Poi resta un tema gigantesco che invece è i costi aggiuntivi, sia per l'aumento del servizio, ovviamente per garantire il trasporto così distanziato, sia ovviamente per la mancata tariffazione e bigliettazione e i risarcimenti degli abbonamenti delle aziende del trasporto pubblico locale che già prima del Covid non stavano in ottima salute, oggi sono in seria difficoltà. Il governo ha stanziato alcuni soldi, 400 milioni, le regioni continuano a ritenere che questa cifra sia largamente insufficiente, il governo chiede di verificare sulla bigliettazione prima durante l'autunno e poi eventualmente andare a conguaglio nel 2021, ma questo secondo noi può portare seri buchi di bilancio alle società partecipate del trasporto pubblico, però insomma questo riguarda poi sì, il tema dei rapporti tra Stato e Regioni. Oh, e naturalmente su un tema così importante è interessante e utile sapere cosa ne pensano gli addetti ai lavori, quelli che nel settore ci lavorano, e quindi chi chiamare se non Andrea Gibelli, che è presidente di ASTRA, Associazione Trasporti, Associazione Nazionale delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale in Italia. Buonasera Gibelli, bentornato qui a Effetto Notte. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Quindi qual è il suo parere, il suo commento su questa intesa raggiunta appunto da parte di chi dovrà poi lavorarci su questa riorganizzazione direttamente? Beh, diciamo che il compromesso è un buon punto di partenza, anche come associazione ASTRA le nostre proiezioni davano imminente la necessità di alzare la capacità di carico dell'80% anche in ragione della sperimentazione che in questi mesi abbiamo raccolto sulla capacità di areazione dei mezzi che consentono un ricambio d'aria che è confrontabile con i mezzi aerei che già avevano una deroga rispetto alle norme generali, quindi in sicurezza la possibilità di trasportare completamente di studenti alla riapertura delle scuole. Quindi, diceva, un primo passo positivo, siete per il momento soddisfatti, Gibelli, appunto non solo il governo, regioni, ma anche gli addetti ai lavori. Da questo punto di vista c'è stata una buona intesa generale. Sì, lo confermo che il compromesso rappresenta un dato di realtà che ci attendevamo in realtà molto prima. Nel mese di luglio abbiamo lanciato l'allarme in ragione del fatto che non è semplice. Infatti ne parlavamo proprio con lei qui a Effetto Notte, no? Proprio a luglio. Sì, di questa perché cosa. Non è semplice organizzare il servizio, perché i valori assoluti spesso sfuggono, no? E fino ad oggi alle regole, fino a qualche giorno fa, si muoveva tra gli 8-9 milioni di persone, che vuol dire oltre il 50%, arrivare fino a 11 milioni di passeggeri con la percentuale che è stata indicata, vuol dire milioni di persone che da un giorno all'altro possono essere accontentati nelle loro esigenze quotidiane. C'è qualche aspetto che secondo lei è ancora da rivedere, che lascia qualche perplessità, o insomma per il momento si può partire positivamente? Beh, l'elemento diciamo atteso è la tenuta del sistema, ovviamente in ragione di decisioni che non dipendono strettamente né dal governo in quanto tale, né dalle regioni, ma dall'autonomia scolastica. E quindi anche sapere nei prossimi giorni che cosa accadrà alla scuola rispetto a tante indicazioni che sono arrivate rispetto ai doppi turni, a tutta una serie di accorgimenti sempre nel perimetro della sicurezza, ma che muovono migliaia e migliaia di studenti, e quindi noi in quella direzione dobbiamo prestare molta molta attenzione. Poi ci sono delle questioni di natura tecnica, tipo la richiesta di avere dispenser a bordo per quanto riguarda la sanificazione, diciamo quella individuale, sempre da fare un grosso appello al senso civico delle persone, perché spesso il mezzo pubblico è considerato di nessuno e quindi i nostri autisti fanno altro. Abbiamo visto scene non edificanti in questi mesi, quindi il senso di società civile deve fare un altro sforzo in avanti, soprattutto in questi mesi dove la scuola è un pezzo importante del paese. Chiaramente, lei infatti ricordava, al di là delle decisioni del governo, le regioni, le associazioni dei trasporti, eccetera, anche prima di tutto il senso civico dei cittadini, perché se non c'è quello, chiaramente manca un tassello importante. Comunque sarà un test cruciale che seguiremo aggiornando le ascoltatrici e gli ascoltatori, naturalmente parlando con voi. Grazie Andrea Gibelli, presidente dell'ASTRA. Grazie e buon Grazie lavoro quindi. Grazie. Grazie. Adesso invece mi vorrei soffermare su una polemica di queste ultime ore che riguarda l'Alto Adige ed è relativa alla possibilità di iscriversi all'ordine dei medici di dottori che parlano solo tedesco. Questa è una modifica che è in discussione in Parlamento e appunto ci sono state varie polemiche perché si parla a questo punto di una discriminazione della lingua italiana e anche della comunità italiana che parla solo italiano dell'Alto Adige. Però Arno Compacer, che è presidente della provincia autonoma di Bolzano, ha fatto nelle ultime ore delle precisazioni ed è qui in collegamento. Buonasera Compacer. Buonasera a voi. Quindi ha sentito anche per esempio la Meloni, presidente di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha detto che è una cosa che non si può accettare, che è una discriminazione nei confronti di italiani della lingua italiana. E che cosa, perché questa possibilità, questa modifica in corso, che ancora quindi deve essere approvata comunque con Pacer? Sì, innanzitutto bisogna dire una polemica del tutto gratuita e inutile, perché l'unica cosa che si prevede è il regolamento di una direttiva europea che dice che laddove nei paesi della comunità europea ci sono lingue amministrative oltre alla lingua ufficiale dello Stato, l'esercizio di una professione deve essere ammessa, anche se richiesto il requisito della conoscenza della lingua, anche a chi conosce quella lingua, se è considerata amministrativa e equiparata a quella statale. È la situazione dell'Alto Adige, dove lo statuto di autonomia, legge costituzionale, prevede che la lingua tedesca è equiparata a quella italiana. Però bisogna anche sottolineare una cosa, che per il servizio pubblico, diciamo il servizio di sanità pubblica, comunque è richiesto la conoscenza della lingua italiana, oltre a quella ovviamente della lingua tedesca, perché le lingue sono equiparate. Cioè il servizio pubblico, che copre il 95% di tutte le attività sul territorio, garantisce comunque la conoscenza di entrambe le lingue. L'unica cosa che si prevede adesso è la possibilità di iscriversi all'ordine dei medici per esercitare l'attività privata come medico. Cioè il cittadino può scegliere o il servizio pubblico dove è garantita la conoscenza della lingua italiana e tedesca, o quello privato dove c'è il medico di lingua italiana, che ovviamente può esercitare la sua professione, ovviamente come su tutto il territorio nazionale, o anche un medico tedesco, ovviamente questo lo farà un cittadino di lingua tedesca che risiede sul territorio. Tutto lì, cioè, altrimenti ci sarebbe stato il rischio anche di una condanna davanti alla Corte di Giustizia europea per il non rispetto di una direttiva europea. Quindi lei dice noi facciamo solo per adeguarci a una direttiva europea, però Compacer, se per esempio lei lo sa che col sistema sanitario nazionale adesso provincia autonoma di Bolzano probabilmente su certe questioni è più efficiente, ma sa che a volte ci sono delle lunghe file, bisogna aspettare dei mesi per fare, non so, una mammografia, un esame importante, quindi a volte bisogna rivolgersi al privato. In quel caso, se un cittadino o cittadina che parla soltanto italiano poi si ritrova con un medico che parla solo tedesco, come avviene poi la comunicazione? Beh, innanzitutto, diciamo, il medico di lingua italiana c'è anche nel settore privato. Adesso si apre anche la possibilità che ci siano anche medici di lingua tedesca, quelli si aggiungono per soprattutto sopperire anche a questo problema. Così, diciamo, una parte di cittadinanza sul nostro territorio, e la maggioranza è di lingua tedesca, può rivolgersi a quei medici, così lasciando più spazio a chi è di madrelingua italiana per potersi rivolgere ai medici di lingua italiana. Cioè è una situazione sicuramente positiva per tutti, e per il cittadino stesso non cambia niente, perché rivolgendosi al servizio pubblico, che ripeto che comunque comprende il 95% di tutti i servizi, è comunque garantita la conoscenza della lingua italiana, perché è un requisito essenziale. Quindi dice non c'è discriminazione, c'è rispetto di una direttiva europea, e poi il 95% del servizio sanitario pubblico e con medici, dottoresse e dottori italiani, per cui, come dice lei Compacer, secondo lei non ci sarà nessun problema né di discriminazione né di difficoltà poi di comunicazione, insomma, tra chi sa la lingua italiana e chi sa solo quella tedesca. Questo per concludere. Va bene. Grazie Presidente Compacer. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Grazie. Bene, direi che a questo punto ci prendiamo una piccola pausa di riflessione e anche di respiro. Continua a essere molto contrariata, ve lo dico, dalle modifiche di di Facebook, per cui non so se stasera riesco a vedere i vostri commenti e le vostre riflessioni. Guardo almeno i WhatsApp al 349-238-6666, dove vedo qualcuno che dice che le affermazioni di Trump fanno venire i brividi a proposito del paragone con i golfisti, dei poliziotti violenti con i golfisti. Vediamo se trovo anche il nome di questa ascoltatrice o ascoltatore, giusto per citarlo. È Stefano da Padova. Poi gli altri messaggi tra pochissimo, ci troviamo tra qualche istante. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete alla seconda puntata della nuova stagione di Effetto Notte, con voi sempre Roberta Giordano, naturalmente ritornata da ieri in vostra compagnia a raccontarvi tutti i giorni, a fine giornata, quello che di più importante è successo in Italia e all'estero, aiutata naturalmente anche dall'approfondimento con gli ospiti. Abbiamo parlato dell'intesa raggiunta proprio ieri sera, ne avevamo parlato anche col presidente della Liguria Giovanni Toti, perché era un vertice importante tra regioni e governo, l'intesa sulla riorganizzazione del trasporto pubblico locale per la ripresa della scuola e delle attività produttive, e ne abbiamo parlato questa sera con il presidente di ASTRA, l'associazione dei trasporti. E poi questa polemica che riguarda l'Alto Adige, la possibilità di iscriversi all'ordine dei medici, che parlano soltanto tedesco a Bolzano, Compace, il presidente della provincia autonoma di Bolzano, ci spiegava che dice rispettiamo in questo modo una direttiva europea e poi non discriminiamo chi parla solo la lingua italiana, perché in realtà per il 95% le strutture sanitarie ci sono all'interno medici che parlano italiano. Probabilmente è una polemica che si trascinerà ancora, perché è una modifica in realtà di una normativa ancora in discussione in Parlamento. Poi semmai su questa cosa ci aggiorniamo. Comunque, dicevamo, riapre la scuola. Ieri vi parlavo anche delle regole decise dal Comitato Tecnico Scientifico. Quella principale è che appunto la mascherina non sarà obbligatoria se tra i bambini e tra i ragazzi ci sarà un distanziamento di almeno un metro. I trasporti, l'abbiamo detto. Certo che si parte naturalmente con delle certezze, ma anche con molti dubbi. Per esempio, si parla del rischio di fuga di molti docenti, e che sono spaventati dall'idea dell'aumentare dei contagi in queste ultime settimane con il rientro dalle vacanze, e che magari hanno un'età, diciamo, un pochino più elevata di altri, sopra i 55 anni. Pensate che la percentuale di over 55 del personale docente è del 40-45%, gli ultra 62 anni sono 171.000, e quindi a questo punto non sono pochi, sembra, i professori che si stanno facendo fare un certificato medico per non rientrare a scuola. Quindi sarà un altro nodo questo da dover sciogliere, da dover risolvere. Comunque, nel frattempo, vi dicevo, è stato dato il via libera dalla conferenza unificata tra governo e regioni all'intesa sui trasporti essenziali per portare i ragazzi a scuola, ma anche al protocollo per la gestione di possibili casi di Covid nelle scuole. E fra gli altri, chi dovrà gestire questi casi di positività al coronavirus nelle scuole? Delle figure specifiche: il responsabile Covid. E oggi è stato annunciato dall'Istituto Superiore di Sanità che, in collaborazione con il Ministero della Salute, partiranno dei corsi di formazione proprio per questi responsabili Covid. E quindi ne voglio parlare con il ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, che è Fortunato Paolo D'Ancona. Professore, buonasera. Buonasera. Quindi partono questi corsi, a chi sono aperti? Sono, mi pare, a distanza prima di tutto, no? Sì, ormai ci siamo abituati. Beh, non solo per una questione di distanza, anche per una questione di numero, nel senso, noi ci aspettiamo dai 50.000 ai 70.000 partecipanti tra medici e personale scolastico, quindi un grande numero che sarebbe assolutamente difficile fare chiaramente in presenza, specialmente in queste condizioni. Chi partecipa? Ci sono due tipi di figure principalmente coinvolte: le figure scolastiche e le figure mediche. Le figure scolastiche sarebbero questi, i referenti Covid, che devono acquisire delle informazioni sulla patologia, sul modo di proteggersi e soprattutto su cosa fare se per caso c'è un caso sospetto o un caso confermato di Covid. Dall'altra parte ci stanno i medici. sia i referenti scolastici, chiamiamoli così, delle figure identificate all'interno dei dipartimenti di prevenzione, che devono occuparsi della scuola, quindi devono fare da ponte, da comunicazione tra il mondo sanitario e il mondo scolastico. In più il corso è aperto, l'abbiamo deciso di aprire anche ai pediatri di libera scelta e ai medici di medicina generale, perché loro invece saranno coinvolti nel processo diagnostico dei casi sospetti e quindi devono avere la percezione di quello che è il meccanismo, quello che li può aspettare. Quindi questi due mondi, il corso vuole unire questi due mondi. Infatti vedevo poi una dichiarazione dell'Ordine dei Medici che diceva: accogliamo con soddisfazione questo corso di formazione a distanza, ringraziamo l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero dell'Istruzione per aver riservato una quota di accessi a queste figure professionali, come ricordava lei, appunto, medici di base e pediatri, no, professor D'Ancona? Sì, esattamente. Sicuramente, infatti, il corso non è basato su indicazioni cliniche, che chiaramente i medici conoscono benissimo, ma è proprio nel meccanismo, a parte il meccanismo scolastico, anche il supporto che gli stessi operatori scolastici hanno bisogno di ricevere dalla parte sanitaria, e chiaramente poi un altro attore, sia pur non facente parte del nostro corso, sono le famiglie, che chiaramente si troveranno un po' preoccupate sia dal rientro sia delle capacità del sistema, sia scolastico che sanitario, di affrontare. Quindi questo è il nostro contributo, fatto in collaborazione col Ministero dell'Istruzione, per appunto fornire un supporto formativo che riprende i concetti già espressi nel documento, ma ne fornisce degli approfondimenti attraverso documenti dedicati o video, e man mano noi avremo nuovo materiale disponibile e lo metteremo a disposizione sulla piattaforma per i corsisti, anche quelli che avranno terminato il corso. Professor D'Ancona, diceva la piattaforma, vuole dare l'indirizzo, un riferimento per... La piattaforma è la piattaforma di formazione a distanza dell'Istituto Superiore di Sanità, che si chiama EDU-ISS. EDU-ISS, cioè Istituto Superiore di Sanità. Esattamente. Questo, ecco. Sono due corsi gratuiti, no? Professor D'Ancona? Assolutamente gratuiti, sono aperti, l'iscrizione è aperta da oggi. Da domani il corso sarà pienamente fruibile e sarà aperto sino a fine dicembre. Fino al 15 dicembre, quindi. Sì. Senta, ma rilascia, non so, un attestato, un certificato, o semplicemente è per assumere competenze personali utili sia al personale docente, ai medici, ai pediatri, oppure appunto rilascia qualche... Il corso, diciamo, che dovrebbe essere aperto per la parte scolastica, appunto, ai referenti Covid che saranno identificati dai dirigenti scolastici. Noi ci auguriamo che anche più di un referente per scuola, anche per darsi il cambio, anche per integrarsi, quindi comunque alla fine del corso loro riceveranno questo attestato di avere completato, c'è anche chiaramente il test finale, il test di apprendimento. Per la parte sanitaria invece ci sono i crediti ECM, quelli di formazione continua, che chiaramente rappresentano sempre un bagaglio utile per gli stessi medici. Quindi questa piattaforma, lo ricordo, EDU-IS con due S, Istituto Superiore di Sanità. Diceva, sono attivi da subito, professor D'Ancona? Ci si può iscrivere da subito, il corso inizierà domani, sarà fruibile da domani. Benissimo, grazie di tutte queste informazioni, professor Fortunato Paolo D'Ancona, ricordo, l'Istituto Superiore di Sanità. Buona serata, grazie, e buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Adesso c'è di nuovo l'aggiornamento per chi sta viaggiando su strade e autostrade in Italia. Vedo qualcuno che dice: sembra che ci siano tanti docenti in fuga, ci sono dati certi, su, per favore, Fabio, insegnante sessantenne, dice Fabio. Fabio, per il momento si parla di questa possibile fuga di un certo numero di docenti che sono intimoriti da questa recrudescenza di casi positivi, anche se apparentemente adesso sembra meno gravi di tutto il dramma che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, che vi ho raccontato giorno per giorno. Dopodiché, man mano, penso che il Ministero dell'Istruzione farà un bilancio, no? Di tutti questi insegnanti. Ancora evidentemente non hanno un numero certo, però bisognerà affrontare anche questa questione. 349-238-6666, il numero per le vostre riflessioni WhatsApp, i vostri commenti, i vostri messaggi, ancora tantissimi che affettuosamente mi danno il bentornata, sono già tornata ieri, ma tanti ancora non sono presenti all'appello, quindi man mano in questi giorni mi farà piacere ritrovarvi tutte e tutti, e ci ritroviamo anche tra pochissimo, pochi istanti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora tante e sempre tante naturalmente le notizie che vi racconto qui a Effetto Notte. Abbiamo parlato adesso di questa figura del responsabile Covid nelle scuole, ce n'ha parlato il ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità Fortunato Paolo d'Ancona, con questi corsi che partono proprio da domani. Adesso invece andiamo oltre oceano, perché le notizie su cui riflettere sono non poche. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Famosissimo brano di Leonard Cohen, che però sta creando, diciamo, dello sdegno nei confronti del presidente americano Donald Trump. Perché? Perché gli eredi di Cohen, scomparso l'artista, questo è uno dei suoi brani più celebri, l'artista canadese scomparso nel 2016, vogliono denunciare e fare una causa contro Trump, perché lui ha utilizzato questo brano per la sua campagna elettorale, per un discorso che ha tenuto in questi giorni. In particolare c'è stato un adattamento della cantante Tori Kelly durante lo spettacolo di Fuori d'Artificio alla fine del discorso dell'attuale presidente. E gli eredi di Cohen ora stanno considerando quindi proprio un'azione legale, perché hanno precedentemente negato il permesso di utilizzare questo brano per la campagna di Trump, ma dice sfacciatamente hanno tentato di politicizzare e sfruttare in modo così oltraggioso Alleluia. E tra l'altro non è il primo artista che si indigna attraverso questo i suoi eredi nei confronti di Trump, ma precedentemente ci sono stati Neil Young, Rolling Stones, Tom Petty, Prince, Aerosmith, diversi altri. Insomma, crea non poco subbuglio per molti versi Donald Trump. Riccardo Barlam dagli Stati Uniti, ciao Riccardo. Ciao, bentornata Roberta. Grazie anche a te. E fra l'altro Trump sta facendo il suo giro per gli stati e le città che sono agitate da queste forti proteste antirazziali dopo i violenti, dopo i nuovi atti, sì, atti di violenza di poliziotti nei confronti di afroamericani, come appunto per l'appunto Jacob Blake, che a Kenosha in Wisconsin è stato raggiunto da 7 colpi alla schiena, lo ricordiamo, da un poliziotto, è rimasto paralizzato. E poi oggi c'è stato un altro caso di l'uccisione di un afroamericano da parte di poliziotti a Los Angeles. Pare che si dica che stava prendendo a pugni un poliziotto, adesso ci racconterai tu meglio. Scappava in bicicletta, e siccome sono stato a Los Angeles qualche mese fa, anch'io sono andato in giro in bicicletta, scappavo in bicicletta anch'io tra nel traffico, mi sono... Ma sei un po' bianco tu, diciamo. Quindi, sono un po' bianco, però i poliziotti americani, quando sanno che sei bianco e non sei americano, se la prendono con te. Se capiscono che sei straniero, devi stare molto attento. Il diverso comunque, insomma, ai loro occhi. Sì, non mi guarda. 2 anni fa alla maratona di New York, la maratona, quindi una corsa, mi hanno tirato fuori una pistola dei poliziotti, quindi me lo ricordo ancora, quindi veramente non bisogna scherzare. Che facevi? Perché non ce la facevi a fare la maratona? Ti volevano... No, perché semplicemente gli avevo chiesto di passare in un punto dove secondo loro non potevo passare. Passavano tante persone, sì. Ma io ero bianco, non americano, e quindi vabbè. Eri un po' italiano. Senti, Riccardo, tra l'altro adesso vedo degli aggiornamenti con Trump, che appunto è andato a Kenosha, dove è successo questo fatto grave. Parla di accusato i dimostranti, vedo, di terrorismo interno, e dice la maggioranza degli agenti sono onesti servitori dello Stato. Allora, io cerco di farvi la cronaca senza dare giudizi, sì. Quello che lui sta facendo oggi è andato lì per manifestare il suo sostegno alla polizia, In questa storia non so chi sono le vittime, chi sono, come dire, non ci vuole molto a capirlo. E poi anche detto alcune cose, dopo il ferimento di Jacob Blake, che tu hai ricordato, due giorni dopo questo ragazzo dell'Illinois, 17enne, con il fucile semiautomatico, con una milizia di sostenitori di Trump armati, volontari, stavano proteggendo un distributore di benzina dai manifestanti. E lui ha sparato a due ragazzi, tra l'altro bianchi, e ha ucciso due ragazzi bianchi suoi coetanei che stavano manifestando. E Trump ha detto che questo ragazzo oggi, che peraltro la polizia di Kenosha non ha arrestato, lui è riuscito a rientrare a casa sua in Illinois, l'hanno rilasciato subito e è stato arrestato il giorno dopo dalle forze dell'ordine della città di Illinois, per farvi capire questa polizia di questa città del Wisconsin com'è. Che fa delle differenze, dici, insomma. Beh sì, perché Jacob Blake con 7 colpi sparati alla schiena era ammanettato al letto di ospedale, paralizzato peraltro. È una crudeltà che neanche, ma non so, io penso forse ai nazisti, ma insomma che bisogno c'è di ammanettare un paralizzato, dici, in ospedale. Esatto. Senti, tra l'altro Trump ha detto anche questa cosa, facciamo sentire questo passaggio. Just like in a golf tournament they miss a 3-foot. You're not comparing it to golf because of course that's what the media I'm saying said. People choke. People panic. Choke. Yeah. And people are bad people. You have both. You have some bad people and you have, insomma, in un'intervista, e c'è la conduttrice che cerca un po' di salvarlo in corner, fa il paragone tra gli agenti che feriscono o uccidono afroamericani con i golfisti che sbagliano la buca. Mancano sì, esatto, ha detto c'è qualche poliziotto che sbaglia le buche ogni tanto, che usa la pistola quando non dovrebbe, così. Un'altra cosa che ha detto oggi Trump, c'è stato un altro episodio qualche giorno fa in questa città, Portland, dove da 3 mesi ci sono le proteste antirazziali e sabato c'è scappato il morto perché si sono scontrati appunto un gruppo, una milizia armata di ultradestra, tra l'altro sono anche evangelici, i Patriot Prayer, che si sono scontrati con una parte radicale di questo movimento Black Lives Matter, c'è scappato il morto. Trump ha detto che questo era un buon uomo, che era un uomo religioso, insomma uno che va lì in una manifestazione di protesta con le milizie armate. Comunque questa sua strategia, la cosa interessante è che ha tolto, ecco, è una strategia, qualcuno dice ha problemi psichiatrici per fare questi paragoni, per dire queste cose, qualcun altro dice no, è proprio una strategia, no, è una di strategia, provocazione. Infatti lui sta riconquistando consenso nei sondaggi, perché oggi gli ultimi sondaggi, la media nazionale, lui è a 6.5 punti da Biden, quindi è al 43,4% contro il 49,6% di Biden. E negli stati, negli swing states, questi battleground states, che sono dove diciamo i due candidati sono più vicini, il margine è ancora più risicato. Lui sta facendo quello che aveva fatto Richard Nixon, con questa Law and Order campagna, che portò a successo Nixon nel 68 su Kennedy, con la stessa strategia. Però la cosa interessante è che sta togliendo tutta l'attenzione mediatica, ma anche delle persone, sul Covid negli Stati Uniti. Lunedì sono stati raggiunti 6 milioni di casi negli Stati Uniti e siamo quasi a 200.000 morti. Milioni di persone in America, tante famiglie americane hanno dei parenti, degli amici, dei fratelli, dei cari che non hanno il lavoro e quindi non si parla più del Covid, il Covid per Trump è già passato, ne parla sempre al passato. E addirittura Twitter oggi ho visto che ha rimosso un post, una condivisione di Donald Trump di un messaggio che riduceva drasticamente i numeri dei morti rispetto a quello che è la realtà invece. Sì, la realtà è l'unica cosa che veramente può cambiare l'esito di questo voto fra 63 giorni ormai è veramente la crisi economica, perché Wall Street ha chiuso un mese di agosto, il miglior mese di agosto da 40 anni quasi, mi sembra, dal 1984, però quella che chiamano Main Street, quindi l'economia reale, soffre, e interi settori dell'economia americana, penso alla ristorazione, ma alle linee aeree, e sono totalmente fermi, i consumi, i negozi di lusso, è tutto bloccato. E quindi non so, questo potrà fare veramente la differenza. ieri mi aveva colpito, mi ha colpito molto, io ti dico, le persone, i bianchi con cui parlo qui a New York che incontro, cosa spesso dico? Mi dicono che votano per Trump, soprattutto quelli che fanno i poliziotti, quelli che comunque votano per Trump, nonostante Trump, quindi, perché per tanti motivi. Tanti anche parlano della paura, del timore appunto che ti entrino in casa, di queste proteste, così in realtà. Quindi diciamo che questa politica che sta facendo la legge ordine di Trump in questo momento evidentemente sta pagando. Riccardo, dobbiamo lasciare, perdonami. Voglio dire che venerdì sono stata alla manifestazione di proteste a Washington, 50.000 persone, nessun problema, con la mascherina, tutti protetti, tutti famiglie, bambini, certo, insomma, nessun problema di sicurezza. È stato chiaro la tua osservazione. Grazie Riccardo Barlam dagli Stati Uniti. Buona ciao Riccardo, serata. Ciao caro. Facciamo un tuffo nel Rinascimento, molto breve, perché stavamo cercando il professor Antonio Sgamellotti, accademico dei Lincei, autore di una ricerca che ha portato alla scoperta, una scoperta che riguarda Raffaello. Sapete che 2020, anno in cui stanno celebrando i 500 anni dalla morte del grande Raffaello, la leggenda del Rinascimento italiano, tante iniziative erano in corso, erano state programmate, però sapete con quello che è successo col Covid, molte cose sono state annullate. Professor Sgamellotti, la chiamiamo da parecchio e quindi abbiamo proprio un minuto per dirci della sua scoperta, dell'importanza di questo blu egizio che lei ha scoperto nel dipinto, nell'affresco del Trionfo della Galatea, di questa ninfa, di questo blu che ha creato Raffaello in modo artificiale, è stato il primo colore artificiale, non si usava più dalla fine dell'impero romano. Professore, abbiamo veramente un minuto purtroppo, perché il suo telefono non... Diciamo che questa ricerca è stata condotta da un gruppo da me coordinato ed è stato veramente sorprendente a ritrovare dopo tanti secoli questo blu egizio, un pigmento artificiale, quindi che doveva essere riprodotto e ci voleva la volontà di riprodurlo. Era nota la passione di Raffaello per l'antico, come la sua consultazione delle fonti classiche, in particolare di Vitruvio, che nel suo De Architettura riporta proprio la ricetta del blu egizio. La presenza del blu egizio su questo affresco di Raffaello è la prova materiale, direi, di quanto grande fosse la passione di questo artista, al punto tale da ricreare i materiali degli antichi romani per dipingere un soggetto che appartiene all'antichità. Questo è veramente sorprendente, perché dopo l'epoca romana il blu egizio era apparso nell'alto medioevo e soltanto con Raffaello, in un dipinto molto importante, autografo, in cui non c'è bottega ma c'è la mano del grande artista, viene riproposto seguendo le antiche. Perché dalla fine dell'impero romano erano stati usati lapislazzuli, invece lui ha ricreato artificialmente nel suo laboratorio questo blu egizio. Grazie professor Antonio Sgamellotti, complimenti per questa scoperta, sì. Un motivo in più insomma per apprezzare Raffaello, che è universalmente conosciuto e apprezzato, insomma il grande genio del Rinascimento. Grazie professore, buon lavoro e buona serata. Grazie, buonasera a voi. E noi ci risentiamo brevemente alle 22:00.